Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera ci diamo un obiettivo, come ogni tanto facciamo, cioè quello di fare un po' di chiarezza su degli aspetti tutto sommato di base, che però molto spesso sono anche territorio di scorribande per luoghi comuni e altre amenità simili. Parleremo quindi di legno questa sera, parliamo di tecnologie che riguardano il legno e che vediamo messe all'opera recentemente anche per realizzare delle infrastrutture imponenti, non so, palazzetti dello sport, centri direzionali, condomini di oltre 10 piani e così via. E di questi aspetti parliamo con l'ingegner Annalisa Battisti, che è responsabile del reparto strutture di Rubner House. Buonasera Battisti. Buonasera a lei. Io direi partiamo da qui, da quello che io credo sia ancora molto diffuso come luogo comune, cioè quello del legno massello, no? Cioè l'idea che il legno massello di fatto sia il non plus ultra per quanto concerne le applicazioni del legno, le proprietà di resistenza, di durata che può offrire il legno. Beh, direi che ormai il legno massello si può considerare superato per quanto riguarda le costruzioni in legno. Diciamo che il prodotto è stato praticamente soppiantato da laminati, quindi prodotti lamellari, bilamellari o trilamellari, in cui vengono utilizzate delle lamelle di dimensioni minori. Sì, di spessore anche però di qualche centimetro, no? Può succedere. Tra i 3 e i 4 centimetri sì. Sono le lamelle, sì. Che sono incollate assieme. Questo consente praticamente di ottenere un materiale che è privo di difetti, perché tutte le lamelle sono selezionate, classificate e vengono eliminati quelli che nel materiale naturale sono i nodi e sono quindi difetti che sono dovuti semplicemente alla ramificazione del materiale. Ecco, e poi, come dire, mi perdoni, provo a semplificare molto, ma un singolo pezzo di legno tende poi col tempo a curvarsi reagendo all'umidità, eccetera, eccetera. Se ne mettiamo tanti insieme, un po' come si fa una fascina, si tengono gli uni con gli altri e questi difetti che ha il legno massello, appunto, scompaiono in qualche modo, no? Sì, sì, ha perfettamente ragione, nel senso che l'incollaggio consente di compensare appunto le deformazioni della singola lamella, e c'è anche un altro vantaggio, il fatto che la lamella di dimensioni ridotte ha anche di per sé minore deformazione. Ah, certo. Ecco, senta, tanto per capire, voi vi occupate di strutture, immagino che farete, non so, anche dei test di rottura, farete delle cose di questo genere. Quando si prova a sottoporre a una rottura, diciamo, un oggetto di questo genere, si rompe dove è stato incollato o si rompe altrove? No, non si rompe mai dove è stato incollato, ecco. Perché le prove sono fatte appunto per garantire che la rottura avvenga sempre all'interno del materiale, cioè l'incollaggio deve avere una resistenza superiore rispetto alla resistenza del materiale stesso. E questo è l'obiettivo dell'incollaggio stesso. Ecco, senta, dicevamo, ci sono questi lamellari, poi ci sono altri materiali, forse nel mondo delle costruzioni si usano poco, come i compensati, gli MDF. C'è un altro materiale di cui si sente parlare che si chiama X-LAM. Che cos'è? Sì, certo, l'X-LAM è praticamente un pannello di parete composto da strati di tavole incrociate e incollate oppure connesse con altri sistemi di connessione meccanica. Ok, quindi come un tessuto, sì, diciamo. No, no. Sì, si fa come un tessuto, quindi si crea una superficie, mentre il lamellare è un elemento lineare, sì. Quindi ha una sua lunghezza e uno suo sviluppo lineare predominante. Invece le pareti X-LAM sono appunto delle superfici. Devono avere delle altre caratteristiche meccaniche, no? Rispetto appunto alle travi. Per esempio, ecco, il lamellare è quello che viene usato per realizzare queste enormi travi che si vedono in alcune architetture moderne, che sono travi lunghe anche decine di metri, no? Singole travi realizzate in questo modo. Ma come si fanno a curvare, peraltro? La curvatura è raggiunta praticamente inserendo tutte le lamelle incollate in delle presse e posizionando queste presse appunto nella posizione esatta della curvatura. Quindi le lamelle vengono schiacciate per garantire l'adesione e l'incollaggio e la curvatura viene data appunto dal quindi posizionamento. È nella fase dell'incollatura che si creano queste geometrie, non è una cosa che avviene dopo. No, no, no, perché le singole lamelle sono facilmente curvabili, certo. Perché la lamella da sola ha una resistenza abbastanza limitata, quindi è facilmente curvabile e l'incollaggio poi garantisce il comportamento strutturale dell'intera trave, certo. Come un pezzo unico. Ecco, e la resistenza, per intendersi, di queste strutture più o meno è la stessa degli altri materiali che si possono utilizzare, il cemento armato, ecco, com'è il comportamento? Sì, diciamo che la resistenza a compressione del legno è uguale a quella del cemento armato, però c'è un incredibile vantaggio che il rapporto tra la resistenza del materiale e il peso del materiale è 5 volte superiore. Pesa molto meno una struttura in legno, insomma. La struttura in legno è molto più leggera e questo garantisce anche una facile prefabbricabilità. Senta, e supponiamo che sotto ci si accenda un bel focherello, però, una di queste travi, che cosa succede? Nel caso di incendio il legno... Oltre ad arrestare il piromane, si intende. Certo, il legno ha un ottimo comportamento perché la parte carbonizzata protegge il materiale sottostante che mantiene inalterate le proprie caratteristiche meccaniche. E al contrario magari dell'acciaio, in cui se viene aumentata la temperatura... E perde le caratteristiche meccaniche. Non gli succede niente finché a un certo punto non perde le caratteristiche meccaniche, a quel punto viene giù proprio tutto, nel senso apparentemente all'inizio non succede nulla, ma poi diventa molle, diciamo. Diventa molle, esatto. E mentre questo legno o brucia oppure... Il legno brucia, certo, è evidente, e si consuma, però molto lentamente, e la parte integra, diciamo, mantiene le sue caratteristiche meccaniche. Ma voi gli fate qualcosa per farlo bruciare lentamente? Ci sono dei trattamenti come delle vernici intumescenti che migliorano le prestazioni, però di per sé per una struttura, se è correttamente dimensionata anche in caso di incendio, può bastare il solo materiale a garantire le prestazioni di resistenza. È intervenuta qualche innovazione radicale negli ultimi anni per permettere che venissero realizzate queste grandi strutture o si potevano fare 30 anni fa? Strutture lamellari esistevano anche 30 anni fa. Dal punto di vista della cultura e dal punto di vista normativo invece è cambiato tutto, perché fino al 2008 il legno non era neanche riconosciuto come materiale da costruzione in Italia. Grazie Battisti, buona serata. Buona serata a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.